parlate chiappischiato sul canale 10. Buongiorno Giulio, sono in ascolto. Luca, ciao, buongiorno. Ciao Luca. No, perché se vedevo il segnalino, vedevo, non pensavo che eri tu. No, no, ma infatti non sono io, ho sentito anche il fischio. Io sono in ascolto e sto saldando un connettore, così che niente, questo è quel apparato che ti ho mandato in foto, Giulio, con il microfono suo. Sì, ok, già è buono Luca, non c'è problema, va benissimo. Mi avevi sentito, Giulio? Da 9.10 a 9.25. Più radio c'è per caso? Sarà chiuso, sarà satura un pochettino. Sì, proprio quasi sul 3. Me la satura un po', e adesso ancora satura? È troppo poco grossolana, capì? Si vede che è attaccato, si sente. Sì, ma è compressa o cosa? No, comunque è buona come radio, non è compressa. Comunque è ultima. Non è chiara chiara, comunque si dà leggermente che c'è qualcosa sotto, si sente. Ho abbassato un po' il microfono, guarda un pochino se va meglio. Adesso è più perfetta, segnale ultimo. Sei quasi 9.30, sei sul 3, praticamente, all'inizio del 3. No, ma sto dicendo per la radio, guarda un pochino il microfono, va meglio adesso? Sì, il microfono è perfetto adesso, capi, lascialo così. E segnale, 1-2, 1-2. Sì, all'inizio del 3, del 9.30. No, va bene, cavolo. Prova a staccare, a vedere. Guarda un po'. 9.10. Con 10 watt. Eccola. No, già aumenta. Anche io leggermente aumentavo ancora lì, capito? Che sono in zona brutta, l'ho visto, adesso sono io. È positivo, adesso sono di nuovo attaccato. Dai, va bene così allora, va bene. E dai, poi stasera si entra, già ce l'ho anch'io, vai, c'è anche Gianni che lo chiama, al telefono che abbia accendere. A chi se no, ha pure in mezzo alla televisione, ti ho detto, manco, bra, boh. E qua mi stai arrivando 9 tu a me. Già è buona 9, vai. Ma come fai a spaventare, non ti sento, il capita. No, no, ero in un'altra frequenza io, ero in un'altra frequenza io. No, mi stai arrivando 9, 9, 8 e mezzo, a picchi positivi a 9. Ecco, aspetta, voglio provare a attaccare il microfono a quello tanne nero, vedere come ti arriva di radio, aspetta. Ehi Gabino, mi sei staccato, mi saldate il filo del tarne, niente, stasera lo salto di nuovo, la pazienza. Ma il pin, il filo del pin. No, no, poi dello spinotto che va attaccato al baracchino. Molto a tre fili praticamente, come lì, su Galaxy. E uno ti sei distaccato. Sì, ma quello importante dentro, ragazzi. Ho capito, ho capito. No, se mi stai dicendo che ti arrivo bene, a me mi interessa che sia pulita la radio, capito? Non il segnale, mi interessa che le parole siano comprensibili e che non sia compressa. Aspetta, adesso chiamo Gianni e te lo faccio sentire da Gianni, eh? Sì, ok. Aspetta un secondo. Oh Gabino. Avanti. E adesso sto accendendo Gianni, dai. È positivo. Adesso accende Gianni. È positivo. Ne ha suscitato, ecco qua lui. Tu prova prima normale, capito? E poi attacchi. Cosa Tony? Ecco Gianni, dai Gianni per Gabino. Buonasera a tutti. Ciao Gianni, buonasera. Eri a nanna? No, non era a nanna, è che non sto molto bene, Gabino. In questo periodo sono a dolori, furti e stavo rilassandomi un pochettino nel letto, ma non era a nanna. Oh già, com'è la radio? Il segnale? Santiago 9, radio 5, buona. 9 e 5. 9 e 5, non ha cambiato nulla. A me arriva più forte già. Questo qui è diciamo che il 3009, non so se il segnale sia, io come lo segna ti sto dicendo. È il 3009, ma di solito è un po' gurriminzo come segnale, capito? Il Galaxy lo dà più perfetto. E allora devo attaccare il Galaxy, dai. Attacco il Galaxy. A me mi dà all'inizio sul 3 praticamente, quasi 9.30, quasi. E adesso è una cosa discernata. Adesso si dice, ecco, poi provi così con Gianni, adesso attacca il Galaxy, è più fedele come segnale, come mio lo stesso. Si attacca con il tuo baracchino varia, addirittura c'ho il presidente più di 7.9, lo vedi, pensa un po', vuole registrato praticamente, regolato. Vabbè. Sì, dai, no, mi interessa più tanto la differenza. No? Sì, e poi ti fai vedere anche la radio, giustamente. Sì, sì, è un discorso di radio, sono presente. Sì, ma... A me mi ha dato soddisfazione, la verità. Per essere piccolo così è buono, eh. Sì, ce l'avevo già io questo qua, va bene, va bene. Vediamo un po'. Gianni, hai provato, ha peccato. Si deve alzare. Si è sul letto per fare questo... attaccare il Galaxy. E meno male il mobile c'era tutto attaccato al letto, beh. Sì, l'ho visto. Prova, guarda Gianni un po' a vedere com'è. È quasi 9.5, dai, non si... Adesso guarda un pochino, guarda se cambia, faccio un altro passaggio. Guarda un po' a vedere già se è uguale. Sì, quasi 9.20. Ma la radio è buona, è compressa, com'è? Posso alzare un pochino il microfono? Allora, fammi tutti e due passaggi, però parla, fammi passaggi più lunghi perché sennò non riesco a capire. Ok, guarda un pochino se posso aumentare un po' il gain del microfono. Un pochino, guarda un po', guarda un pochino a vedere se migliora qualcosa, aspetta aspetta un attimo, guarda un po', se migliora qualcosa. Ma più o meno mi sembra uguale, dai, comunque va bene, capi. La radio è bella come l'altro giorno. Sì, è bella. Ok, il segnale non ha aumentato tanto, vero? Aspetta, no, da 9.5 a 9.20 l'hanno aumentato. Sì, se... da 9.5 a 9.20, sì, non avevo capito 9.20. Da 9.5 a 9.20 ti ho detto, sì. Aumentato. Quanto c'hai sotto? 100. Va bene. Va bene. È cosa giusto. Ma cos'è c'è, lineare o dalla parte? Sì, una scheda esterna, Capito. Cavolo, mandamelo con l'apparato che lo voglio vedere. 747. No, l'apparecchio che stai usando, mandami, lo voglio vedere. Cos'è, Yaesu? ICOM 737. Col microfono originale. Antonino, come mai sei sveglio? Perché sempre dormito per voi, ci ha addormentato, no? Oia, già mi riposo dopo, che devo continuare con le patate, che un po' staccano un attimino e poi l'ho messo al forno. ho già mangiato una cosa così al volo là. Io ho mangiato una bella fetta di pasta al forno, una bella amprosa, l'ha fatta proprio una bomba. E poi mi sono mangiato alette di pollo piccanti e poi un arancio, boh, non ho già mangiato altro, non avevo più gara di niente, e te continuato a mangiare, io non avevo più gara. E te mangiare un mattone che ancora a mangiare, non ho più gara, ancora devi avere fame, boh, altre macenze, capi? Avete già stai mangiando una delle pasta al forno, io credo che non hai fame già. Si è mangiato l'impossibile, io ho mangiato un piatto di pasta con per farti pasta al sugo e una frittata di piselli. Sto bene così già. Ieri sera ho provato a fare un fischio ma non c'era nessuno. Tutta la sera ieri chiamando, uia. Ho chiamato tutta la sera, ieri sera 4-5 volte, poi alla fine mi sono sintonizzato su altra frequenza, ascoltato lì, ho spento tutto perché non c'era nessuno. E io mi sono fatto un paio di fischi ma non c'era nessuno lo stesso. Non c'era nessuno lo stesso. Guardato su 10, su 23. Niente, allora fino alla durata fino a 40, ho preso, ho spento tutto e mangio per la televisione. Poi ho acceso alle 7 meno 20, niente. Ho provato poi alle 7:10, nessuno, ho spento tutto, non ho accetto più. vabbè, perché adesso molta gente sta studiando perché devono dare l'esame fra poco e non hanno tempo di entrare. Esame sì. No, io sono entrato, ho fatto un fischio alle 4, alle 6 e mezzo, poi intorno alle 7, poi ho collegato ma non ho sentito nessuno. No, Gabi, solitamente alle 4 non entra nessuno, entrano dopo le 6 e mezza così, 6 e un quarto, 6 e mezza, quell'ora lì entrano. E stanno sino alle 8, poi vanno tutti a mangiare e poi qualche volta rientrano, qualche volta non rientrano più. E io stasera già, tanto già sono qua in garage e se fate un fischio già ci sono, dai. Comunque già, io mi sto fidando alla tua torre radio e mi stai dicendo che è tutto ok e mi fido ciecamente di te come sempre. Oh, va bene, capi, se no te l'avrei detto. E dopo te l'ho messa perché la stazione è in garage? Sì, in garage ce l'ho già. Ce l'ho in garage perché mi faccio i miei lavoretti la sera e lo tengo acceso, capito? Così se capitano quattro chiacchiere ce le facciamo. C'ho il mio mondo io qua già. Ho capito, vabbè. No, io l'ho voluto mettere qua in camera perché quando sono stanco mi sdraio, c'ho il mobiletto vicino, tranquillo, l'hai visto, te l'ho mandato. Sì, adesso mi ti mando quello che c'ho io, te lo mando su Messenger. Via. E praticamente poi quello che c'ho sopra, il primo apparecchio, quello lì è il Royce. È un apparecchio degli anni 70 americano, esce bene, va bene, tu lo accendo, lo faccio andare un po'. Sì, aspetta che ti metto in cuffia a vedere come ti sento, Gianni. Sì, Gabi. Ti ho in cuffia. Ti sto penetrando. È tutta un'altra cosa in cuffia, dai, è tutta un'altra cosa. E a me lo stai dicendo, io ho anche le Sennheiser, ho quelle che usano per intenderci DJ delle discoteche, ho le Sennheiser. Io mi sto disascoltando con un paio di Marshall, io ho le Marshall così e sono assurde. Sì, si sente tre volte meglio, solo che no, quando magari sto coricato mi danno fastidio, quindi le Sennheiser tu sai benissimo che hanno gli auricolari larghi. Sono fine, sono troppo, però sono cuffie che costano un bel di là. Sono belle, sì, sono belle. Oia. Sto tenendo a stare un pochino elevata questa roba, che vada in saturazione. Prova, se la saturazione te la mettere com'era. Ho capito. Dimmi Tonino, adesso gli sto dando 12 watt. Sei saturo. Sei un po' saturo, capi. Dai, l'ho messo com'era, così, sei a posto. Se no ti scalda un po', quando stai sempre a motore, il passaggio un po' più lungo, ti conviene mettere una ventolina di raffreddamento. Ma quello che avevi tu è quello che c'ha, capi. Eia. Tornata normale, già. Che cosa? La radio ancora satura. No, è normale, Gabri, li devi dare al massimo 10 watt, non è meglio che non gli dio quell'apparecchietto, io ho avuto 4-5. Allora, sono con i filari a MOSFET, quegli apparecchi lì, quindi sono molto migliori di quelli ZG, eccetera, eccetera. Però non li devi dare più di 10 watt. Se tu ne dai 4 di watt, sei a dama. Adesso ci sono i watt a zero dell'apparecchio. Ci sono i watt a zero. Sì, sì, va bene così. Ma non so quanto te ne staranno, anche se sono a zero magari i watt ce li hai sicuramente, se no non saresti uscito. Però quando tu gli dai pochi watt, la radio diventa migliore praticamente, anche più forte. E il segnale aumenta, anche se non aumenta come magari quando tu gli dai 12 watt, aumenta un po' di più, però la radio fa schifo e satura. No, ma infatti a me mi interessa, no, 10 watt di Sada, 10 watt. Picchia 10 watt di Sada. No, no, mi va bene che la radio sia tranquilla con un segnale buono, discreto, sempre 9,20 sono. Guarda Gavi, la radio questa qui è perfetta adesso, bella forte, sembra amplificata addirittura. Prova a vedere quanto sei adesso. Guarda un po', 10 watt di uscita di radio e poi c'è lui, microfono originale e niente, tutto K. Ma tu sicuro sei che sei già 200 watt? A me non mi bari, c'è 9,30 watt. No, è 747 il Midland. E allora cosa scaldato l'apparecchio? Ora sei 9,30, sei sul più del 9,30. Anche a me è vicino al 3 del 9,30 già. Sì, è come ha scaldato, infatti già è caldo. Cioè caldo normale, caldo giusto, a temperatura. Di radio sono di stazionare 1,1 con la radio e poi con lui, non lo so perché manca lo spezzone, ma credo di essere 1,5, dai, spero. Domani vado a Fusaro e mi prendo i PL. Te lo stavo dando, ma non va bene tu, perché quello lì è 5LRC58, io ho l'altro, quello grosso, capito? Un'impedenza diversa, uno è 51 e l'altro è 52, è diversa. Ebbene, il teleriduttore ci stava lo stesso. Come già? Ma stava il teleriduttore da quel PL e ci stava lo stesso l'RG8. No, già, quello che ho io sono quei fissi, sigillati proprio. Ah, no, e allora no. Ehi, vabbè, domani vai te lo prendi, però occhio che il fusario sta vendendo i PL che non avvita la ghiera all'apparato, c'erano tutti difettosi, con la finestratura difettosa, non avvitava. E io ne ho preso, ho fatto roba di 5-6 spessori, quindi 12 PL ho preso, non ce n'era uno che andava bene, mi metto di riportarlo, ma oramai erano saldati, cosa li riporto. Vabbè, comunque chiedi, se sono quelli difettosi, nemmeno di prenderli, se no vacci con, se c'hai un apparecchio, se con linearetto, vacci con linearetto e li provi, si avvittano. Positivo, vado con Rosmetrino e guarda a vedere se avvittano, è quello che ti volevo dire. No, adesso sono proprio i watt della radio, sono a 0 a 0, a 0 a 0 a 0, sta lavorando solo lui. Ma Gavi, va bene così, non lo forzare perché ti fa partire i filari, non forzarlo, così va benissimo. Guarda, la radio è potente, bella, chiara, limpida, recoaro. Positivo, dai, positivo. Avanti, Tony. Soddisfatto sia adesso, Gabi? Sì, ma io volevo una cosa, dai, mezzo prepotente, capito? Sì, da prima non 5.000 watt, e quando fai il break si chiude la parigianizzata lì. No, che va bene così, dai, una cosa mezzo prepotente, che dai, ti seguono un po', mi segui? Giannino? Io ti seguo. Ti appare un segnale che sia in Ovizzassa, regà. Uno di forze come sei tu, già poche persone arrivano a questo segnale. Anche l'Axi 79, 95, 910, capito? K. Io adesso capisco cosa ti arrivo con il Galaxy. 9 e 10, a picchi positivi. Io anche proprio che arrivo lì, ho capito. hai visto le condizioni che sono io, quindi. No, no, tu mi stai arrivando un segnale autofisso a picchi 9 positivi. Gianni è 9-10, 9 a picchi positivi. Buono. Guarda adesso. E anche un palazzone. Io sono in campagna e sono anche bassino, credo di più. Comunque l'importante è che mi faccio sentire, Gabi, poi già mi va bene. Gabi, guarda adesso. Passaggio. Ho detto, l'importante è che mi ascoltano poi. Anche che già mi ha attaccato il balluccio. Guarda adesso, Gabi, come arrivo. 1, 2, 3, prova. 9:25. Che va bene. Cosa c'è, lo stesso che c'ho io? No. E lui ce l'hai più alto. Ce l'hai più alto tu già? 300. Ma il microfono per regolare, i watt della radio per regolare tu già? In questa radio? Sì, erano a zero i watt, li ho zerati. No, casa è bella, bella, bella, bella, bella. Se potevi abbassare un po' il watt però era stata ancora migliore. No, no, ma 9:20, 9:25. Già va bene. Eia. Va bene ragazzi, oh, siete stati gentilissimi, grazie Tonino, grazie Gianni della cortesia che mi avete fatto. Io sai cosa mi stavo guardando a letto? Ero su TikTok, stavo guardando quelli che vanno in cerca di fantasmi nelle case. Lo zuzu va viuga. Tu stavi guardando le porcone. Ma le guardi di quelle cose, io le faccio e non le guardo. No, io già le guardo invece. No, io no. Quando capita su TikTok, così girando magari, vedi quelle che fanno i balletti. Dai che io mi guardo le patate, devo girare, se mi si brucia non mangio manco un patato stasera. Dai, ci sentiamo, ciao Gavino, se stasera accendi, dai. Verso 6:30, 7:15, accendo anch'io. Ciao Gianni, scusa, ti ho disturbato, ma mi interessava sapere anche il controllo tuo per Gavino, tutto qua. Buon proseguo, ciao a tutti, state bene, cuore te da parte mia. Non sai che a me non mi disturbi mai, non c'è problema. Quando posso lo faccio il favore, come sei tu, come sono contigo. Vabbè, Gavi, alle 6:30 stasera ci accendi e ci sentiamo. Sì Gianni, stasera accendo e ci facciamo due chiacchiere, dai. Ciao, grazie, buon pomeriggio, a stasera. Ok, ciao ciao. Ciao ciao, ci sentiamo Gavi. Ciao a tutti.